Roma 10, c'è qualcuno? Hola? Hola, hola, hola, hola. Attenzione 10, attenzione 10. Hola, attenzione, canale 10, copiate Antonio Bombolo, cambio, cambio. Una cosa del genere, di quelli piccoli senza smitter. Ecco fatto che grazie a te credi che c'ho io, no? Non è che c'ho un maracchino di chissà che cosa, no? Che maracchino stai usando? Al faglietto, lo stai usando? La Fayette Ares Pro. La Fayette Ares Pro. Conosco, lo conosco. Gli era stato l'M95 così, Cazzo l'ho avuto pure io quello lì. Adesso io c'ho lo zio, c'ho quello con lo smitter. Hai capito? Lo conosco, lo conosco. E vabbè, l'ho preso qua per metterlo nel camper, tranquillo qua, piccolino, già va bene. Però appunto l'ho dato 4-5 mesi fa, l'ho dato, forse anche di più, dai, l'ho dato a un amico, l'ho dato, perché di serviva gliel'ho dato, perché io avevo preso questo, hai capito, e poi ho preso questo qua e a me mi basta qua, cioè ne volevo uno con lo smitter, funziona abbastanza bene. Ce l'ho avuto. Sai come è rientrato? Mi devo guardare un attimino come ti sto arrivando. Sono grande, ma amico lì, lo sto perdendo, non lo sento quasi più. Ora non so se lo ascolta ancora, su che sono la difesa del marino. No, per me stai arrivando Santiago 9. No, Santiago, dai, 7, radio 5, stai tenendo assolutamente. Dove, sentito, non riesci a tirarti fuori, prova a venire avanti di nuovo. A capo, già mi è sparito pure lui. Negativo, Bidu, non ti sente neanche lui. Quindi ti sto arrivando abbastanza bene, guarda un po' adesso. Hola. Ma andavi bene anche come di prima, sembrava che fossi in cabina con me, capito? Benissimo, però stava grande, limpido. Vero, già mi sembra di sentire qualcuno, allora, copia anche tu in sottofondo. Sa? Copia, già lo sento io un po'. Però praticamente c'è qualche antenna che rende poco, Perché se è un'antenna che rende si sente come. Campa di Roger, attenzione, stazione il molo, attenzione il molo. Viene avanti da questa parte del grotte. Campa, stai spingendo forte, rispetto a come ti copio, sei decisamente guadagnato un paio di punti, sei Santiago quasi 5, è una radio di 3, però comprensibile, buona. Il segnale si è rimasto quasi lo stesso, ma hai aumentato di modulazione, la modulazione è arrivata a 4, buona, chiara. Campa di Roger, sei comunque in compagnia di Antonio Bombolo e di B2 che si sta in transito verso Papatango. Ti rilancio un attimino Antonio per vedere se ha copiato il passaggio. Avanti Antonio. Antonio. No. Attenzione B2. Campa di Roger. Era più in centro il moro, c'è un po' di distanza dove sei tu, quindi è normale che... No, tu stai sempre arrivando chiaro qua, non riesco a copiare più Antonio, non so se sia il QRX, avanti a tu. Si accappa, cambia un radio, perché sennò così rovina, ce l'ha lasciato poco tempo ferma. Sta arrivando a Sassari, Pinocchetto. No, negativo, credo che fosse in stazione fissa Bulzi, lui è Bulzi se non sbaglio. Così mi confermi, Pinocchio? Buduso! Cappa, ma dove sei a Buduso, sì? Cappa, non ti ho mai sentito così, comunque. Ottimo e abbondante, assolutamente. Negativo, va benissimo, si è aumentato di segnale e di radio, adesso la radio è quasi 5. No, buono, qualsiasi cosa stia facendo, stai arrivando, stai migliorando sempre. Campa di Roger, no, hanno fatto un buon lavoro, dai, avanti, c'è un break, e come tutte, ui, avanti, Anto. Sì, a capo, adesso mi è sparito, mi è coso, non lo sento più, forse perché, c'era qualche antennino, forse tu senti a me. Sempre bene, sto facendo questa radio, Anto, c'era un po' di tempo che non la stavo accendendo. Ma questa secondo me è la migliore che hai, Esce benissimo. Cappa, sente anche l'eco un po', vero? Cappa, sì, non è fastidioso, è buono, è ottimo anzi. power questo, un loud intake. Vedi Roger, Fabrizio non l'hai sentito, non si è affacciato. No, negativo, non l'ho sentito perché anche ieri non ha acceso. Ci ha avuto da fare delle cose e Fabrizio ha detto va, stasera accendo e provo a vedere se ci sta qualcuno. Ma radio facendo mettiamo qua. L'ho acceso un attimino su sul canale, radio ascolto sul canale, come si chiama? 145-525, un attimino, sto vedendo se c'è qualcuno. Però con nessuno. Negativo. Certo, ma dico, come sta andando quanto? Tua? No, la situazione, come ti andando in notte? Sicuramente stiamo riniziando, nel senso che è finita l'estate, un po' di gente è rientrata, quindi si sta riaccendendo la cosa. B2, sei già arrivato? Attenzione B2. Attenzione B2, attenzione B2. Negativo, negativo. Attenzione canale 10 se c'è qualcuno che vuole entrare, cambio, cambio. Dovremmo casino stasera. Sì, così, diciamo che c'è nessuno in ascolto, che sono mandroni e non vogliono parlare. E vabbè, quando li verrà la voglia entreranno pure loro. Ma ti dico due parole, sono sinceramente, perché mi era passata pure la gana, la verità, infatti. Vabbè, anche perché ho altre cose da fare, giustamente. Poi mi hanno fatto passare anche un pochettino la voglia per tutte quelle cose che un po' negative, diciamo la verità. E poi ho un sacco di cose da fare, hai capito? Cappa di Roger, vabbè, cose si rimettono a posto. Aspetta un attimino il QRX che sistema una cosa che sta parlando e mi sta spegnendo la radio, un attimino. Yeah. Roger, B2, un attimino di QRX per me, che credo che Antonio non ti ascolti, e vieni avanti di nuovo per lui per vedere se riesce a tirarti fuori, avanti. KV2, dai. Buon QRT, buon 144 quando lo farai, grazie del piccolo QSO e ci sentiamo al più presto. Tutto ricambiato anche da Bombolo che credo che non riesca a copiarti più, dai. Buona serata, ciao ciao. Ma già lo sento basso basso. Ma comunque lo saluto lo stesso, dai. Sento già adesso, poco fa evidentemente in zona negativa, vai. Adesso bene o male già ti sento, ok, ce la risentiamo.